restare fermo ad ascoltare tu che sali le scale e la tua porta che si chiude con il tuo mondo e le paure. Ed ogni cambio d'umore con la gioia ed il dolore ti vorrei conoscere più di un'abitudine nella nudità della solitudine. Per condividere i silenzi e le paure ti vorrei conoscere più di un'abitudine nella verità della solitudine puoi superare ogni volta un nuovo limite. Condividere le tue gioie e le paure, cercare di poter rubare un tuo gesto e la tua voce, capire di non essere capace, di non riuscire a non pensare a te come un'ossessione e scrivere mille volte in tuo mondo. Vorrei conoscere più di un'abitudine nella nudità della solitudine. Puoi superare ogni volta un nuovo limite, poter condividere i silenzi e le paure, ti vorrei conoscere più di un'abitudine nella verità della solitudine. Puoi superare ogni volta un nuovo limite, poter condividere le tue gioie e le paure, entrare nel tuo mondo e scoprire la sua luce e il suo colore. Ed assaggiare il tuo sapore, poterti toccare, la tua anima baciare, e insieme poterci abbandonare. Vorrei conoscere più di un'abitudine nella nudità della solitudine. Puoi superare ogni volta un nuovo limite, poter condividere di un'abitudine nella verità della solitudine, puoi superare ogni volta un nuovo limite, poter condividere le tue gioie e paure.